La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, come ogni sabato a quest'ora, a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui da Radio 24. In una settimana con molte uscite, con qualche cosa di interessante, dove l'estate comincia a farsi sentire, e si comincia a far sentire sulle sale e si comincia a far sentire anche nei festival, di cui parleremo. Questa settimana è la volta del Pesaro Film Festival, uno dei festival più antichi di tutto il panorama italiano. E poi, come sempre, giocare insieme, indovinare il nostro film misterioso, vincere Blu-ray e DVD, insomma, buone ragioni per stare insieme tutta l'ora. Allora, cominciamo subito a entrare nel vivo della trasmissione con il primo film della nostra carrellata fra le novità in sala. Si intitola I miei giorni più belli. Che cosa fai a Parigi? Sono l'uomo del mistero. Misterioso? Tu parli e lì c'è una lista d'attesa? Tu ti chiami Esther e sei nella classe di mia sorella, Paul. Non smetto di mangiarti con gli occhi. Faccio sempre questo effetto. Perché? Perché sono eccezionale. Chi è quel tizio? Lo conosci? No, vuoi che ti accompagni? Sono venuti per spaccarti il cranio. Patrick, quello biondo, usciva con Esther. Mi dispiace, ma forse sei stato scaricato. Ma forse la noi. Anche io, non ti conosco, però mi hai già stancato. Credo di averla fatta sporca con Esther. Davvero? Perché me la sono vagamente scopata. E allora queste un po' le suggestioni di questo film che potremmo definire anche giovanilista, firmato da un grande nome del cinema francese e in generale del cinema contemporaneo come Arnaud Desplechin, con Mathieu Amalric, sicuramente la faccia più conosciuta fra quelle in cartellone. Titolo originale Trois Souvenirs de ma jeunesse. Noi ne parliamo con Boris Sollazzo, che è in collegamento telefonico. Ciao Boris. Salve Franco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Abbiamo cominciato con il cinema francese, con un grande nome come quello di Desplechin, e con un film che ha avuto critiche molto positive. Raccontaci un po' di cosa parla, di qual è la sua trama, il suo racconto, e poi dopo ne parliamo criticamente. La trama è abbastanza facile. Ci si trova di fronte a una storia molto particolare, anche decisamente originale, che è quella di un uomo che, sconfinando, si trova a dover spiegare perché esiste un suo perfetto gemello, ma ebreo russo, nato in Israele, però lo stesso giorno, lo stesso mese, lo stesso anno suo. E a questo punto inizia quello che Marzia Gandolfi, una brava collega, ha definito un ego pic, che secondo me è una straordinaria definizione per far comprendere come questo sia il biopic introspettivo e anche raccontato, narrato in prima persona, inevitabilmente, visto che si tratta di una testimonianza cinematografica, dalla parte del protagonista. E quindi questa è la storia, il racconto. Chiaramente, che cosa deve fare il protagonista? Entrare all'interno dei suoi giorni, non solo quelli più belli, ma in generale i suoi giorni, cioè recuperare e capire chi è veramente Paul Dedalus. Naturalmente il gioco è molto semplice e molto potente, che è quello di capire che cosa definisce veramente l'identità di un uomo, cioè se è quello che ha sui documenti, quello che ha sul passaporto, quella che è la sua storia, o se è quello che prova, i suoi sentimenti, quello che noi vediamo. Noi ci vediamo sostanzialmente squadernare davanti il diario di una vita, raccontata volutamente da una parte faziosa, e con quello stile assolutamente unico e non facilmente decifrabile di Desplechin, che è un uomo che ha un cinema fortemente estetizzante, fortemente melodrammatico, fortemente sentimentale, ma allo stesso tempo anche uno stile straordinario a livello cinematografico. Ha un gusto per tutto ciò che è la componente cinematografica, la musica, la fotografia, e raramente lo abbiamo visto raccontare, lui che è sempre comunque molto attento all'individualità, raccontare qualcosa così dall'interno. Di solito si metteva sempre in un'ottica terza. Ne esce fuori un film che chiaramente è comunque per gli amanti del cinema di Desplechin, perché inevitabilmente la sua firma è uno dei pochi registi che nel momento in cui mette la sua firma tu la riconosci fin dal primo fotogramma, ma che comunque rappresenta secondo me un elemento di rottura rispetto al suo modo di raccontare passato. È un film interessante, è un film estremamente autoreferenziale, non solo per quanto riguarda il protagonista, però ha il pregio di prendere nel classico, regalando però un linguaggio a suo modo innovativo. Quindi A me ha soddisfatto, anche se chiaramente secondo me mette gli spettatori da una parte o dall'altra sostanzialmente. Difficilmente troverete qualcuno che avrà un parere grigio sui miei giorni più belli. Assolutamente, come su tutto il cinema di Desplechin. Questo quindi, i miei giorni più belli. Prima di dare la linea alla viabilità, diamo un'occhiata un po' alla situazione in classifica, al box office dello scorso weekend. Indovina un po', Boris, chi ha vinto il box office dello scorso weekend in Italia? Beh, molto difficile, devo dire. Angry Birds. Incredibile. Incredibile. Non ci avrei mai pensato. Angry Birds, però, al di là di questa classifica, che poi vede al terzo posto, parlo delle novità, Conspiracy, e vede Warcraft, per esempio, proseguire piuttosto bene, comunque ha superato già i 3 milioni di incasso. Voglio segnalare che La pazza gioia di Virzì è ancora settimo in classifica nel weekend, ha incassato circa 5 milioni e mezzo, ed è ancora distribuito e visibile in 125 sale in tutta Italia. Cioè, ci sono film che escono oggi che non sono distribuiti in 125 sale, sono molti, eh? Cioè, 125 sale è una buona distribuzione italiana. Questo per dire come tante volte i film trovino il modo, come dire, di penetrare in profondità nel pubblico e nelle persone e soprattutto nei passaparola. In America invece, primo weekend e subito record per Alla ricerca di Dory, e quindi prepariamoci, appena arriverà in Italia a settembre, a un record sconvolgente. Lo spin-off di Nemo, con protagonista la pesciolina più smemorata e simpatica della storia del cinema, in 5 giorni ha portato a casa 182 milioni di dollari e ha fatto il record del miglior primo weekend per un film d'animazione Disney. Quindi, come dire, siamo già su una strada praticamente imbattibile. Allora, traffico adesso, torniamo fra poco e ci beviamo, anzi ci guardiamo e ci gustiamo 5 tequila. La rosa purpurea. Eccoci ancora qua dopo la viabilità a parlare dei film in sala e facciamo un volo in Messico per raccontarvi 5 tequila. Salute, cari amici. Si tratta dell'ultima volontà di un amico del cuore. Faccio in tempo ad andare in bagno, è troppo lontano per arrivarci a piedi. Quanto manca per arrivare? Ti costerà caro pisciare così tanto. Il destino lo decide Dio. Tu credi che Dio ci metterebbe in un bordello? In un bordello? Pedro, tuo figlio è un gran frocio. Ma talmente tanto che neanche te lo immagini, sappi. Grazie! Alvarito, 5 tequila. 5 tequila è l'ordinazione di un simpatico gruppo di vecchietti che si ritrovano quotidianamente per giocare a domino, e però un giorno, diverso dagli altri, uno di loro, Pedro, fa una cosa molto particolare, cioè tira fuori un tovagliolino. Molto spesso è capitato che le grandi canzoni siano state scritte sul tovagliolo di un ristorante. Questa è una storia di ricorrente, è successo anche in quel caso, e soprattutto dice: questa è una canzone che poi è diventata famosa, scritta da un popolare cantante proprio su questo tovagliolo. Questo è il pezzo originale, lo voglio donare al museo di questo cantante. Perché? Perché mi manca poco da vivere, perché mi mancano pochi giorni alla mia vita, e quindi l'annuncio scioccante nei confronti dei suoi amici, e quindi mettiamoci in viaggio per portare questa documentazione, questa testimonianza là dove deve stare, in questo museo. Film messicano, dicevo, con attori che in patria sono molto famosi, il regista Jack Zaga-Cababl, spero di averlo pronunciato bene, ci racconta una commedia amara della terza età, come ultimamente il cinema ama molto fare, però Boris, con comunque quel sorriso sornione che è tipico della cultura messicana. Ma sì, anche perché noi siamo abituati ormai a vedere film di registi messicani e non film messicani, quindi film di registi messicani molto bravi, che hanno poco forse ormai di quella cinematografia, di quell'arte, di quella visione del mondo. Quindi è molto interessante invece vedere un percorso che è quello di un film messicano che arriva fino da noi, che è un percorso molto molto raro, ed è un peccato perché 5 tequila è un film molto delicato, si inserisce in quel filone di cui parlavamo qualche mese fa proprio qui alla Rosa Purpurea, che è quello della terza età sostanzialmente, che negli ultimi anni è esploso, probabilmente perché da una parte il pubblico è diventato più vecchio, c'è una cinefilia di chi ha iniziato molto giovane ad andare al cinema e continua ad apprezzare, per fortuna, nostra e del cinema questo spettacolo anche in tempi di DVD, di scarichi più o meno illegali. E un po' perché il cinema ha saputo evolversi e capire che la vita non finiva a un certo punto, come Hollywood ci ha fatto credere fino alla fine. Film come film messicani e cinematografia come quella della cinematografia messicana lo sapevano già da tempo. E qui che cosa c'è? C'è il più classico degli on the road, c'è il più classico dei gruppi di vecchi, simpatici, intelligenti, pieni di vita vissuta ma anche ancora di vitalità. C'è una commedia scritta molto bene, scritta in maniera delicata, anche senza nessun tipo di volgarità, e c'è la capacità di percorrere con leggerezza anche un viaggio che non è solo un viaggio verso un museo per regalare il cimelio, ma è ovviamente anche un viaggio che porta dalla vita alla morte, perché loro si devono per la prima volta realmente confrontare con la possibile dipartita di uno di loro. E tutto questo va all'interno di un Messico che noi ci aspettiamo folcloristico, oppure magari trumpistico, nel senso di Donald Trump, visto che non ne sentiamo altro che parlare in termini apocalittici, che invece troviamo come un paese eccezionalmente normale o normalmente eccezionale, con le sue particolarità, le sue delicatezze, ma assolutamente fuori gli stereotipi folcloristici a cui siamo abituati, che siano il sombrero o gli immigrati. Ne esce fuori un film molto che intrattiene molto bene, che lascia dei momenti di grande tenerezza. Non è un film straordinario, ma è un film molto molto gradevole, che secondo me ci introduce all'interno di un cinema che trascuriamo troppo in questo periodo, in cui da lì invece vengono molti talenti. E questo è infatti è uno dei motivi per cui l'estate cinematografica ci piace, perché questo cinema, questi cinema riescono molto spesso proprio a emergere in questo periodo e a trovarsi spazi nelle sale. Questo film per esempio è del 2014 come produzione, non sarà l'unico di questo periodo che arriva in Italia dopo qualche periodo, però comunque è importante che si possano guardare, si possano ovviamente guardare sul grande schermo. Giochiamo insieme adesso con la prima traccia del nostro film misterioso. Ricordiamo sempre 10 secondi circa di una clip, dovete indovinare di che film si tratta e scrivercelo al nostro indirizzo di posta elettronica larosapurpura@radio24.it. Ma io non so ballare. Ma certo che sì. Aiuto Papini. Sì, no, fai da solo. Vai alla grande, figliola. E allora, vi ripeto ancora il nostro indirizzo di posta, larosapurpura@radio24.it, il titolo di questo film, il vostro indirizzo, mi raccomando mettetelo, perché altrimenti diventa poi un problema andarvi a cercare durante la settimana per chi si è appunto aggiudicato il Blu-ray di questo film. Vi faremo ascoltare più tardi un'altra traccia. E allora, dopo il gioco, la mamma, non vuol dire niente, ma è quello che succede, perché adesso parliamo di un film che si intitola Mother's Day, è il ritorno di una grande firma, della commedia soft, diciamo così, americana, come quello di Gary Marshall. Ricorderete ovviamente tutti Pretty Woman. Di Pretty Woman troviamo nel cast corale di questo film Julia Roberts, il film si intitola Mother's Day. Ciao a voi spettatori! Buona festa della mamma! Lo sai, a colazione niente più schifezze. Le ha portate papà. Lui manda anche a scuola senza mutande. Ha un ex che si è appena risposato con una dodicenne. Twittami se vuoi notizie dei ragazzi. Ci puoi pensare tu alla spesa? Che ci serve? Succo di frutta, uova. Uova. E gli assorbenti. Cosa serve? Assorbenti. Scrivo solo a... me lo ricordo. Controllo prezzo per gli assorbenti biologici. Non serve. A chi va la dedica? A tua figlia. Madri di tutto il mondo, almeno di tutti gli Stati Uniti, unitevi, si sono unite in questo film, che annovera nel cast anche, lo ricordiamo, Kate Hudson, Jennifer Aniston e nella principale parte maschile Jason Sudeikis. Insomma, volti e nomi importanti di questo tipo di commedia americana e anche del cinema più apertamente comico, qui però molto contenuti, molto limitati nei movimenti dalla sceneggiatura di Gary Marshall. La storia concatenata, corale, come dicevamo, di una serie di madri che alla vigilia del Mother's Day, della festa della mamma americana, fanno un po' i conti con se stesse, con la loro vita, a volte con la loro solitudine, con un divorzio, con un figlio che sta con la nuova compagna di lui che sembra una teenager, con tutte le problematiche di una madre. Poi, canonicamente, diciamo così, la conclusione di Gary Marshall, Boris, è che di mamma alla fine ce n'è una sola. Sì, anche di Gary Marshall ce n'è uno solo, forse è una fortuna, mi dispiace essere così caustico, però il suo è un cinema estremamente vecchio, quando parlo di vecchio non parlo di antico che può essere un valore, ma proprio vecchio, un po' consumato dai cliché, dagli stereotipi che continua a proporre, sia a livello estetico sia a livello contenutistico. Questo Mother's Day è un film di cui potevi intuire insomma la riuscita fin dal soggetto di 3D che probabilmente deve aver detto che rimarcia dal suo produttore, o che forse, e mi immagino che sia più probabile, il suo produttore deve aver detto che rimarcia, perché Mother's Day è un'idea molto banale a Hollywood: prendi un cast di stelle, non incredibili star ma stelle, quindi un medio alto budget in cui tu non trovi la grande star del momento ma trovi più o meno delle stelle sempre evergreen, che possono essere per motivi diversi, da Julia Roberts a Jennifer Aniston, e le metti tutti insieme, trovi un argomento che più o meno unisca tutti, cioè attori, pubblico e regista, in questo caso la mamma non può che unire tutti, non possiamo che essere d'accordo da italiani, figuriamoci, e poi decidi di sviscerare quell'argomento, che è un argomento che inevitabilmente non solo il cinema ma il mondo ha sviscerato già abbastanza, decidi di sviscerarlo secondo tutti i tipi di cliché e stereotipi. Addirittura Gary Marshall ci mette del suo, siccome un regista eminentemente borghese, decide che la cosa migliore è proprio fossilizzarsi su quel tipo di realtà borghese, che non solo non esiste più o meno in tutto il mondo, perché ahimè quella classe si è molto depauperata e quindi non esiste quella tipologia di famiglia, o esiste molto poco, ed è assolutamente poco rappresentativa, ma che soprattutto propone un modello femminile che veramente non esiste più, cioè queste donne divorziate, queste donne in difficoltà, queste donne non esistono più come le racconta Marshall, come le raccontava 20 o 30 anni fa. Quindi è difficile pure dare una considerazione cinematografica, perché dobbiamo dire che Jennifer Aniston è la solita attrice sottovalutata, che comunque è il suo, alle sue capacità, e che qui forse ha l'unico difetto di scimmiottare, chissà perché, la Rachel Green di Friends, che mamma non era, ma che era figlia, ed era una figlia impossibile, che Julia Roberts puoi metterla a fare pure Mangia Prega e comunque ne esce dignitosamente, quindi figuriamoci in Mother's Day. Però è un film davvero pleonastico, cioè un film che noi abbiamo già visto probabilmente decine e decine di volte, lo abbiamo visto fatto meglio, è vero che l'abbiamo visto anche fatto peggio, che è un film forse che serve proprio da usa e getta, cioè il giorno della festa della mamma potresti andarlo a vedere, ma da noi esce dopo. Quindi francamente non riesco a trovare nessun entusiasmo, e penso che lo spreco di risorse che c'è in questi film impedisce a tanti film indipendenti, non solo americani, di poter uscire. La speranza almeno che insomma gli incassi giustifichino l'impresa. Ma effettivamente sì, infatti tra l'altro è abbastanza bizzarra questa uscita col titolo originale, non come potevamo aspettarci in prossimità dell'8 maggio, ma in questo caldissimo fine giugno. Ed effettivamente è vero che è un film che comincia e finisce dove vuole Gary Marshall, ma potrebbe cominciare e finire in qualsiasi altro momento, non ha sostanzialmente né capo né coda. È un racconto, una sorta di instant, con storie che si inseguono l'una con l'altra, ma senza poi portarti, sì, più di qualche piccolo sorriso con la parte esterna del labbro, perché le attrici e gli attori sono comunque attrici, attori di talento, e quindi il loro lo sanno fare come si deve. A questo punto noi diamo la linea alla regia. Fra poco parliamo di un film di quei, possiamo chiamare situation movie, cioè dove tutto si svolge in una situazione. Li avevamo visti da No Man's Land in poi in situazioni pazzesche, tutto nel carro armato, tutto in una bara, tutto di qua, tutto di là. Stavolta tutto con un piede su una mina. Stiamo parlando di Passo Falso. A fra poco. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, terza parte della Rosa Purpurea, e come vi abbiamo lasciati? Vi abbiamo lasciati con un piede su una mina. È la situazione che vive il protagonista di Passo Falso. 3, 2, 1, incrociate le spalle! Sei proprio un coglione, per poco non ti sparavo. Sarebbe stato un altro incidente, tanto per te che cambia. Che cosa stai insinuando? Ah, bravo, Teddy, vieni, vieni, vieni. Sto qua. sarebbe stato la merda. E allora, sì, non ha pestato, diciamo così, lo sterco del diavolo, come si diceva, ma qualcosa di peggio, qualcosa che quando ti alzi, poi dopo, non è che ti lascia solo un'impronta maleodorante, ma ti fa saltare per aria. È una mina, siamo in Afghanistan, un plotone di soldati francesi su un elicottero arriva in questa zona fatta di pietre e di polvere e subisce un'imboscata. Praticamente tutto questo succede nei primissimi istanti. Questo sergente si trova a pestare una mina e si trova a dover vivere le prossime ore, un pomeriggio molto molto assolato, una notte e la mattina dopo, con il sole in testa appunto, ma soprattutto con un piede su una mina, l'impossibilità assoluta di muovere quella gamba, il che porterà anche qualche problemino a livello fisico. Di fronte a lui il relitto di un camion pieno di eroina e i passaggi delle persone del posto, molto molto rari, e con i quali cerca, laddove sia possibile e utile, di intessere una trattativa. È un film, come dicevo prima, che potremmo chiamare situation movie, no? Qualcuno ha tirato fuori un paragone con un film di questa stagione, molto bello tra l'altro, che si intitolava Land of Mine, sotto la sabbia, la terra delle mine, e raccontava, l'avevamo detto qui alla Rosa Purpura, raccontava il dopoguerra in Danimarca, quando i danesi presero i tedeschi che li avevano occupati fino a quel momento e li fecero diventare i loro sminatori, proprio da quelle mine che i tedeschi avevano lasciato riempire, di cui avevano riempito la Danimarca. Ebbene, non è quel tipo di film, non è un film storico, anche se la tensione sulla mina che può esplodere è sempre, sempre viva. Ricorda di più No Man's Land, ricorda di più Bury, ricorda di più quei film che si svolgono tutti in una situazione, in un'unità di luogo, oppure Lebanon, ricorderete, tutto dentro un carro armato, dove il punto di vista non può muoversi molto dall'originale, quello appunto occupato dal protagonista del film. Boris, anche questo sta diventando un pochino un genere, che ci si trovi in una gabbia o che ci si trovi in una fossa o con il piede su una mina, perché tutto sommato riesce a raccontare la tensione. Qui mi sembra che il lavoro venga svolto piuttosto bene da Yannick Saillé, anche se forse con qualche sconfinamento nell'inverosimiglianza. Mamma mia, devo dire che vengono in mente anche Gravi di 127 ore, proprio per quello che dici tu, no? Dell'uomo solo di fronte a qualcosa che potrebbe essere il suo ultimo giorno, il suo ultimo minuto, la sua ultima ora, insomma. Sostanzialmente quella l'idea che nel soggetto è sì diventato un genere ormai, no? Potremmo chiamarlo One Man Dead, no? One Dead Man Walking probabilmente. Però il problema, io ho un piccolo problema con questo film Passo Falso. Se l'avessi visto prima dell'ultimo Festival di Torino, ti avrei detto che era un buon film, un buon esordio, intelligente, con un ottimo Pascal Elbé, con dei dialoghi ovviamente scarni ma intelligenti, con momenti di profondità e anche con qualche buona idea. Purtroppo però, per fortuna mia, all'ultimo Festival di Torino io ho visto Chi lo ci bravo di Paul Kedis, che è esattamente il film gemello, solo che non è un francese ma un inglese a finire su una mina e poi un altro inglese e poi un altro inglese e poi un altro inglese, un intero plotone che sostanzialmente si ritrova all'interno di una valle completamente coperta di mine, anche qua russe, anche qua in Afghanistan, e che vivono questa situazione. Ecco, Chi lo ci bravo è un capolavoro. Ha una capacità di farti entrare, forse come solo Art Locker di Catherine Bigelow, nell'insensatezza delle guerre sporche, non che ce ne siano pulite, ma ce ne stanno alcune, quelle appunto in cui si usano le mine anti-uomo, che portano avanti le loro battaglie insensate, ottuse e senza nemici, perché non c'è, no, non è la guerra di Piero, di Fabrizio De André, non c'è un nemico, c'è solo qualcuno sotto il terreno che è pronto a farti saltare in qualsiasi momento. E allora devo dire che con quel confronto, con un film praticamente gemello, io Passo Falso lo trovo un passo falso, perché mi rendo conto che guardandolo in controluce Passo Falso è pieno di inverosimiglianze, sarebbe dovuto esplodere il buon Elbé almeno 3 o 4 volte durante il film per i movimenti che fa, perché ci sono un paio di momenti insensati nei dialoghi e negli incontri che fa, non si capisce perché i suoi interlocutori fanno determinate cose ma non ne fanno altre, se non appunto la costruzione della sceneggiatura che vuole arrivare a quel finale che è inevitabilmente prevedibile, e perché ti rendi conto che Saie non ha mai il coraggio di fare quello che invece fa Kiluciu Bravo, cioè di andare a fondo dell'aspetto psicologico, dell'aspetto teorico del film. Rimane sullo show, sulla forza di un racconto che appunto si svolge tutto in quella situazione estrema. Quindi avrei detto che era un buon esordio, e forse lo è lo stesso, però non all'altezza né dei modelli che abbiamo citato in precedenza, né appunto di questo suo film gemello, che chissà come, forse perché le idee girano, esce nello stesso periodo e nello stesso momento. E tra l'altro appunto si può rifare un po' un pezzo del discorso che si è fatto per Gary Marshall, anche se siamo su un'altra cosa, cioè un cinema che arriva dopo rispetto a quel tipo stesso di cinema, cioè rivedere film così, tu hai detto bene, Art Locker anche, un altro film che sta dentro lì, adesso ci chiederemo, il prossimo sarà di un uomo che rimane con il dito sull'interruttore della luce perché se la toglie, cioè troveremo un altro escamotage per raccontare sempre la stessa storia, allora deve avere un'idea, un punto di vista, un modo nuovo per raccontarla, perché altrimenti non ne vale la pena. E allora questo era Passo Falso, che tra l'altro potremmo dire, ma sarebbe una battuta banale, ce l'aveva già scritto nel titolo. Andiamo a giocare nuovamente insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Tu devi essere il guerriero dragone. E tu devi essere Kai, la bestia della vendetta, il Trea Vedove. Sì, finalmente, ti ringrazio. E allora, di che film si tratta? Scriveteci il titolo, il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due Blu-ray di questo film per i più veloci che risponderanno, indovineranno. Il titolo lo sveleremo fra poco, alla fine del nostro programma. I vincitori la prossima settimana. E allora l'ultima incursione nelle novità in sala di questo weekend è un'incursione nell'horror, l'abbiamo detto settimana scorsa, l'estate è per vocazione il momento in cui molti film di questo genere arrivano nelle sale. Questo è un sequel di un film che aveva fatto molto bene nel primo caso, si intitolava The Conjuring, e questa volta è il caso Enfield. Questa è casa mia, vattene subito. No, questa casa non è tua, dimmi come ti chiami. Il mio nome è Bill Wilkins, ho 72 anni. Che ne pensate della voce? Sembra confuso, demenza senile. Su questo nastro è incisa la voce di una bambina di 11 anni. La chiamano l'Amityville inglese. Tu morirai. E allora, le atmosfere sono queste, 1977 è l'anno in cui tutto si svolge attorno a una seduta spiritica dalla quale, come avete anche sentito, come dire, si sprigionano forze malefiche. Boris, estate, horror con The Conjuring, il caso Enfield, cosa aggiunge, cosa sposta, cosa mantiene rispetto al capostipite? Mi vengono in mente due battute. Uno, che abbiamo capito le motivazioni del Brexit, probabilmente nasce tutto da The Conjuring. E il secondo è che, risentendo il trailer, nonostante io abbia visto il film appena due giorni fa, non l'avrei riconosciuto. E questo mi fa venire in mente, uno, che continuiamo a fare dei trailer e a confezionare dei trailer tutti uguali nella speranza che il pubblico ci caschi ogni volta. Andando a vedere gli incassi, invece il pubblico è più intelligente di chi fa i trailer. Due, però, che lo stesso film non aggiunge nulla, nel senso che sarà che noi vediamo dai 300-400 film all'anno, quindi più di un pubblico normale, ma è anche vero che insomma gli horror ormai vengono fatti con lo stampino. Incredibile che però questo arrivi da una saga appena nata, perché questo è il secondo capitolo, che qualche elemento di novità l'aveva portato col primo capitolo, soprattutto con una sperimentazione audio e video molto audace, proprio nella struttura dei toni, sia estetici che proprio fonici, del racconto cinematografico. E non era un tentativo banale, insomma, non si faceva da parecchio tempo in questi termini, c'era anche del Raimi, del primo Raimi in questo tentativo. E qui si torna a una veste molto più classica, con il problema che il racconto della casa infestata non è proprio un racconto nuovo né particolarmente originale, e il regista Wan ha un interesse totale solo per l'immagine. Gli interessa pochissimo la scrittura del film, che infatti risulta piuttosto banale, immatura e anche piatta. Gli interessa pochissimo anche tenere i ritmi, gli interessa come riprendere il tutto. Devo dire è particolarmente bravo, perché fino a che il film riesce a reggere, ed è già, soprattutto per quelle sue inquadrature oblique, per quel suo modo anche di utilizzare il fuoco, la fotografia, di cercare sempre una visuale diversa, sia pure con movimenti apparentemente sperimentali, ma già visti anche quelli. E poi però ci si ritrova a dover combattere con la prolissità del film, e probabilmente anche con la mia nel parlarne, perché gli sto già dedicando troppo tempo per il valore, con l'esile trama che diventa un esile finale, e quindi sembra più che altro un esercizio di stile. Detto questo, stanno già preparando il terzo capitolo, detto questo sta avendo successo, detto questo probabilmente incentreranno il nuovo politico sul nuovo villain, che è effettivamente la cosa più interessante del film. E questo allora è The Conjuring, il caso Enfield, nei cinema italiani. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora a questo punto, linea la viabilità, fra poco torniamo qui perché dobbiamo risolvere il nostro game, ma soprattutto parlare dei festival, del Pesaro Film Festival, che sta per aprire appunto nella ben nota località adriatica. Fra poco. La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, e come annunciato già in apertura parliamo di festival. L'estate insomma si porta dietro la bellezza di vedere il cinema nei luoghi più belli, al mare, nei borghi, eccetera eccetera. Poi c'è festival e festival ovviamente. Questo festival di cui parliamo oggi è una bella tradizione, una ricchezza del nostro panorama cinematografico. Stiamo parlando della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, Pesaro Film Festival, se vogliamo dirla come si dice nei tempi moderni, 52esima edizione, il che vi dice quale storia, soprattutto per il cinema italiano, ci sia alle spalle e quale storia si cerchi di continuare a costruire. Lo fa non per la prima stagione un amico della nostra trasmissione, ma anche un bravissimo critico e direttore di festival, che si chiama Pedro Armocida, che è in collegamento con noi. Ciao Pedro. Ciao, buongiorno. Eccoti qua. Allora, l'esperienza te la sei fatta a Pesaro, no? Per cui adesso puoi cominciare a così a portare avanti un festival che ti somigli sempre di più, e quest'anno è un festival veramente molto sfaccettato, con tante scoperte dentro il cinema italiano ma anche fuori, e con la capacità anche di cominciare a storicizzare. Io vorrei partire da qui. C'è una sezione del vostro festival quest'anno che si occupa del cinema italiano degli anni 2000. Ora siamo abituati a sentirlo come quello di ieri, no? Come il film che abbiamo visto l'altro giorno. In realtà c'è già una storia del nostro cinema italiano, di questo primo piccolo scorcio del terzo millennio. Che storia è? Guarda, noi ci siamo posti delle domande su come soprattutto è cambiato il modo di raccontare le storie al pubblico, con uno sguardo diciamo sul cinema più popolare, e quindi ci siamo posti delle domande che sono in qualche modo all'ordine del giorno: se il cinema è ancora un'arte popolare, se è in grado di raccontare storie per tutti, e come è cambiata poi il modo di raccontare anche con il moltiplicarsi delle forme di fruizione. Cioè il cinema naturalmente, anche da come viene visto, cambia le sue forme del racconto, e abbiamo realizzato un volume, il classico diciamo quello verde della collana Martiglio storica del Nuovo Cinema di Pesaro, insieme a Laura Buffoni che mi ha accompagnato in questa avventura, e il libro ha contributi di decine di critici e secondo me è molto interessante, abbastanza unico anche nella sfaccettatura delle opinioni e dei contributi. Poi invece per quanto riguarda proprio la retrospettiva a Pesaro, questo è il libro, e viene accompagnato da una retrospettiva in cui abbiamo scelto, io uso un termine forse non troppo accademico, di giocare con i film italiani, quindi facciamo vedere film del passato e film degli ultimi 15 anni. Adesso, per farti capire cosa vogliamo fare incontrare e scontrare anche a livello di proiezione, ti faccio l'esempio dei Compagni di Mario Monicelli insieme a Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, due commedie sui lavoratori, e naturalmente parliamo del 1963 e del 2008, un mondo intero è cambiato, non solo appunto nella forma di narrazione, Verdi è comunque uno dei nostri unici forse registi che fa veramente commedia all'italiana nell'accezione storica del termine. Poi passiamo, continuo a dirti le coppie velocemente, Terza liceo di Luciano Emmer e Come te nessuno mai di Gabriele Muccino, quindi la scuola al cinema anche come è cambiata. Poi abbiamo scelto dei trittici più che delle coppie, come sul noir, per esempio il noir anche nel discorso dello spazio urbano, di come viene utilizzato, e quindi partiamo da Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo, passiamo per Il passato una terra straniera di Vicari fino a Suburra di Sollima, e senza dimenticare il cinema politico, quindi Todo modo di Elio Petri e Viva la libertà di Roberto Andò, su due appunto politici, Moro e un politico del PD fantasioso, ma poi neanche così tanto. E per chiudere il romanzo storico Il film in costume, Da senso di Visconti, Il resto di niente di Antonietta De Lillo e Noi credevamo di Martone. Beh, davvero, davvero una bellissima iniziativa questa, che ci aiuta proprio anche a riflettere su come il nostro cinema super contemporaneo abbia comunque, come dire, lontani genitori con i quali raffrontarsi, e questo raffronto a Pesaro vibrerà. Pedro, secondo te qual è il film italiano di questo, diciamo, di questi primi 15-16 anni degli anni 2000 che rappresenta di più la direzione che sta prendendo il cinema italiano? Guarda, la domanda è complicata, però io rispondo adesso con un film uscito da poco e che abbiamo scelto per la copertina, e secondo me c'entra anche perfettamente nella copertina di questo volume, che è La pazza gioia di Paolo Virzì, che è un film che secondo me, diciamo, rimane importante perché comunque è una commedia, ma anche ha i suoi lati tragico-comici, rappresenta secondo me il cinema italiano al meglio, naturalmente in questo genere che è stato fondante e fondativo per il cinema italiano, che è questa commedia agrodolce, che è veramente la nostra cifra. Ne abbiamo parlato anche in apertura di trasmissione, dicendo che La pazza gioia è ancora in giro in più di 100 cinema in tutta Italia, il che dice che insomma è un film che è rimasto, è un film che si è aggrappato e anche in questi tempi difficili ha saputo trovare e continua a trovare la sua strada. Telegraficamente, Pedro, l'ultima cosa, il concorso, perché a Pesaro c'è sempre anche un concorso, dacci proprio due dritte per poterci orientare nella vostra sezione più competitiva. Sì, film naturalmente da tutto il mondo, ma quest'anno con la commissione di selezione abbiamo scelto anche film che in genere non si vedono neanche tanto ai festival. Naturalmente noi sappiamo che esiste proprio un film da festival quasi come categoria, e quindi noi abbiamo cercato un po' di smarcarci, di essere un po' più liberi, quindi c'è veramente di tutto, da un film francese molto molto bello che si chiama Les Ogres di Léa Fener, un film con Adèle Haenel, l'attrice quella dell'ultimo film di Dardenne a Cannes, e di The Fighters, e poi si va in Niger in una specie di Purple Rain, di storia musicale di un cantante che vuole farcela nel Niger, è molto bello, quasi un documentario in questo senso. Si va all'America di The Ocean of Helena Lee, un film in anteprima mondiale di un regista americano, Jim Akin, che con la moglie Maria McKee, che è una cantatrice molto famosa in America, ha fatto questo film con un'interprete giovanissima, Maria Blonna, molto giovane, ne sentiremo parlare, in cui elabora il lutto della morte della madre. E poi c'è un film italiano, ci tengo, non perché bisogna, diciamo, proteggere i film italiani, ma perché è un caso un po' particolare, anche questo è un'anteprima mondiale, si chiama Per un figlio, è di un regista dello Sri Lanka, il nome è un po' complicato da dire, ci provo, Suranga Deshapriya Katugampala, che è un immigrato di prima generazione dello Sri Lanka, e racconta proprio una storia di un adolescente e di una madre a Verona, Verona è una città, diciamo, del nord, in un ambiente multiculturale, e la diversità del figlio è comunque dello Sri Lanka, ma vuole sentirsi italiano e fa di tutto per farlo, la madre è ancora molto legata naturalmente al suo paese di origine, e queste due conflittualità esplodono nel film. Pedro, grazie davvero, e ricordiamo l'appuntamento a Pesaro dal 2 all'8, se non sbaglio, di luglio, giusto? Dal 2 al 9. Dal 2 al 9. Sabato. Ti rubavo un giorno. Dal 2 al 9, Pesaro, grande mare, grande cucina e grande cinema con il festival. Grazie a Pedro Armocida. Grazie a te. E E questo per quel che concerne i festival. Adesso è il momento di arrivare al cinema da vedere in casa, cominciando con il film con cui avevamo giocato 7 giorni fa. Scusami, sono qui giù. Ciao. Per tutte le macchie di ghepardo hanno davvero assunto una coniglietta. Che storia! E allora, si trattava di Zootropolis, il titolo ve l'avevamo già dato, i vincitori invece no, e sono Marco Bertolotti di Cologno Monzese e Andrea Cipriani di Padova. Saranno loro che riceveranno la copia in Blu-ray di Zootropolis, il film con cui avevamo giocato 7 giorni fa, il primo film d'animazione Disney di questa stagione. Ne parliamo con gli amici di Film TV, con Giulio San Giorgio. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, è il 50° classico d'animazione Disney ed è un piccolo ma divertentissimo noir con protagonista però una coniglietta poliziotta e una volpe furbetta. È intrigo intelligente, una morale progressista di grande acume sul contemporaneo e che è capace veramente di raccontare come un piccolo saggio di sociologia tutte le sfumature del pregiudizio, ma è anche un film pieno di gioia cinefila. Un piccolo gioiello in un'edizione Blu-ray ricca di extra, disponibile anche in una steelbox da 2 dischi, e un'edizione di grande livello, come sempre quei film d'animazione della casa, perfetta nel riversamento e con un grande senso del dettaglio audiovisivo. Questo per quel che concerne il game della scorsa settimana. Andiamo a dare un'occhiata invece ai palinsesti televisivi e a che cosa ci offrono a livello di film per i prossimi giorni, cominciando con una accoppiata targata Jacques Audiard, che è un regista francese, insomma, raffinato e sicuramente da scoprire o riscoprire. Un sapore di ruggine e ossa, domenica 26 giugno su Rai 5 alle 23.05, e Dipan, una nuova vita, su TV8 alle 14.15 di mercoledì 29 giugno. Giulio. Sì, due film di Jacques Audiard, che come dicevi è un regista francese che da sempre si dedica ai marginali, ma lo fa con un respiro epico, molto fisico, con un romanticismo che sembra quasi barbarico e una visione pessimista del mondo. Un sapore di ruggine e ossa è uno struggente melodramma proletario al tempo della crisi e della crisi forte dei valori, con una Marion Cotillard veramente impressionante, mentre Dipan, che i fratelli Coen hanno premiato come penultima Palma d'Oro al Festival di Cannes, è un altro racconto tumultuoso, questa volta di un gruppo di rifugiati nella banlieue parigina, storia di una finta famiglia in fuga dalle guerre che si ritrova nel tumulto appunto di una guerra d'altro tipo. Lunedì 27 invece, Dietro i candelabri di Steven Soderbergh, la vera storia di Liberace, su Rai 3 alle 21.05. Sì, siamo nel 1977, della storia della relazione tenuta segreta al pubblico tra il famoso pianista Liberace, tutto kitsch travolgente, virtuosismo musicale barocco, e il giovane Scott Thorson. È l'ennesimo grande film di Steven Soderbergh sulle dinamiche della società dello spettacolo e le alienazioni del consumismo. Un melo raffreddato che tiene lo spettatore a una distanza siderale, con due meravigliosi protagonisti che sono Michael Douglas e Matt Damon. Veramente un grande film. Grazie Giulio San Giorgio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo giunti allora alla fine del nostro programma. La Rosa Purpura si chiude qui, non prima però di avervi svelato il film misterioso di oggi. Si trattava di Kung Fu Panda 3, i vincitori fra 7 giorni. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.